Siamo rientrati in diretta, 451 frammenti sonori, Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, che piace molto al buon Max, amante della non mi piacciono queste parole complesse, difficili. Io sono per i monosillabi. Primitivi, che l'altro giorno mi dicevano che politicamente è scorretto chiamare qualcuno primitivo. Invece io voglio dire che voglio chiamarti primitivo con un grande senso avant. Bah, usiamo questo termine. Primitivi di nuova sensibilità. Io voglio farmi una maglietta. Voglio proprio che diventi quasi l'animalità, un ninno primitivi di nuova sensibilità. Lo ripeto bello, anche per tutta la sera. Oddio, no, è una minaccia? No, assolutamente, non mi permetterei mai. Va bene. Comunque, ovviamente, siamo rientrati noi, due pazzi di 451 frammenti sonori, che chiaramente ricordano ai coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo istante preciso, cioè alle 0:49 minuti, che siete in ritardo. 0:49 minuti, che qua dice 49, là sul computer sono 48, vabbè, ma poi il ci tempo, colleghiamo con Greenwich, il tempo è opinabile, anche questo insomma ce l'ha insegnato il buon Albert Meyer, noi siamo nel tempo, non siamo il tempo, giusto? Sì, più o meno fa così, più o meno, sì, però il concetto è quello. Circa, che ne so, non mi ricordo. Vabbè, un momento di noi non abbiamo il tempo, noi siamo. Noi siamo l'incontrario proprio. Ho fatto una rivisitazione mia. Giocosa, basta. Ludica. 451, stasera appunto affrontato il tema dei giocattoli sonori. Abbiamo fatto un percorso attraversando Klimperei, progetto francese, poi per arrivare a Frank Pal, musicista eclettico americano, per poi arrivare a Ergo Fitzmitz, che apre la strada invece a un duetto unico che ha attraversato l'inizio del percorso di 451 frammenti sonori all'inizio degli anni zero, cioè Mike and Rich, l'omonimo disco appunto degli anni 90. E a questo punto, continuando il nostro percorso di giocattoli sonori, apriamo con un personaggio importantissimo sulla scena degli anni 90, che ha attraversato 451, ma forse non abbastanza, e stasera appunto lo vogliamo omaggiare con un piccolo blocco dedicato a lui con vari progetti, e direi lanciamoci su. Sì, sperando di non lanciare il blocco in testa a Felix Kubin, insomma. È un blocco musicale, lanciamo quello. Ma bisognerebbe lanciare altre cose in altri posti. Sì, ma in testa muta gente. Vabbè. E Felix Kubin lo omaggiamo questa sera perché probabilmente uno dei più grandi giocolieri, vogliamo mettere così, oppure uno dei più geniali bambini cattivi della musica elettronica e non solo, degli anni zero, un fantasista della musica, nel senso così, un parallelo calcistico che veramente crea delle situazioni strabilianti, e con anche quel vezzo un po' così da bambino appunto, che ogni tanto sta per fatti suoi, che si allontana dal gruppo per poi rientrarci in maniera assolutamente fantastica, che appunto è questa sorta di produzione sempre parallela, mai un sbocco commerciale pieno, ampio, come invece ad esempio ha avuto Aphex Twin da un sperimentatore, però poi ha avuto anche un certo riscontro musicale. Sicuramente Felix Kubin per tanti aspetti potrebbe averlo, ma una certa etica, mettiamola così, dell'indipendenza, dell'autonomia anche, perché no, discografica, creativa, distributiva e quant'altro, insomma, il mondo del commercio anche musicale prevede. Invece Felix Kubin gioca anche su questo e scombina le carte. Clan Krieg è il primo progetto di Kubin, che già affronta la faccenda giocosa con anche elementi decisamente sperimentali dentro una forma post-industriale di elettroacustica pazzoide metallica, ma con Kang Grieg sviluppa anche un senso alienato del gioco, finché, come Felix Kubin, in parallelo, avendo sempre questa progettualità Kang Grieg invece, che ci porta appunto alla fine degli anni Ottanta, il gioco diventa più esposto, diventa sicuramente più estetizzato, se vogliamo, reso appunto più esterno e fatto fuoriuscire nella sua meravigliosa fantasia. E appunto questo blocco di Kang Grieg e Felix Kubin ci riporta a questo personaggio assolutamente straordinario degli anni zero, che appunto omaggiamo dentro le nostre ludoteche sonore, dentro i nostri giocattoli di questa sera. Einmal diese Figur, die so zierlich aussieht. Und eine kleine Unsicherheit auch jetzt, als man in der Mitte ein wenig verharrt, ein wenig aus dem Rhythmus gekommen. Und jetzt wieder durch die Mitte der Bahn, ein wenig aus dem Rhythmus gekommen. Ist nicht abgebremst worden. Kombinationen, genau jetzt in der Mitte der Fläche. Von der Kopfseite jetzt diagonal mit Drehschritten durch die Bahn. In großer Spirale. Jetzt wieder Anlauf vorwärts. Jetzt müsste die Todesspirale kommen. Da fasst er sie an der Hand. Heute ging es mir wieder recht miserabel. Kein Appetit. Überhaupt keine Lust, was zu essen. Ich sagte dies dem Arzt und er sagte: Ach, das ist gar nicht so schlimm, wenn Sie keinen Hunger haben. Das macht nichts. Ein schwacher Trost. Öffne ein ganz kleines bisschen nur deinen Mund. Ich krabbel jetzt nämlich über deine Hand. Und du spürst. Und du spürst. Und du spürst. Und du spürst. Innen und außen. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Oder dein Kopf. Wie er sie ausschaltet. Oder dein Kopf in deinem Körper gar nicht mehr so wehtut. Was glaubst du? Du weißt ja. Was glaubst du? Du weißt ja. Was glaubst du? Du weißt ja. Innen und außen ist noch etwas schief. Schon wieder aus deinem Körper rausgekommen. Du weißt ja. Wie er sie ausschaltet. Innen und außen. Innen und außen. Innen und außen. Ausschaltet. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Wie er sie ausschaltet. Und du spürst. Und du spürst. Und du spürst. Ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl. Innen und außen. Innen und außen. Ist noch etwas schief. Schon wieder aus deinem Körper rausgekommen. Dann könntest du. Dann könntest du. Ja, jetzt eigentlich auch gehen. Du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon da. Du bist schon da. Und du spürst, wie die Kälte langsam rauskommt und sich überall in dir ausbreitet.

Yeah. Felix Kubin, un omaggio che abbiamo fatto qua, 451 frammenti sonori, di omaggi ne abbiamo fatti tanti. Kubin è un personaggio assolutamente straordinario e questa sera appunto ci così sconquinferava, fateci passare il bello, mi piace, un po' giocoso, bravo. E appunto di tirare fuori un personaggio di tal fattezza musicale, anche sfattezza musicale a volte, legato a quella giocoleria sonora tecnoide della music di Colonia, che più di una volta è passata qua, 451 frammenti sonori, soprattutto insomma qualche annetto fa, quando insomma c'erano anche delle cose ottime per quanto riguarda una certa techno virata anche su così momenti di follia, probabilmente insomma in quegli anni sono distanti, insomma anche ce lo possiamo anche dire tranquillamente, sono dietro le spalle, seppure appunto la produzione di Kubin comunque continua, spostandosi chiaramente rispetto a quella che è stata insomma la sua esperienza music, anche a quella che è stata l'esperienza Can Krieg, perché no, visto che partiva alla fine degli anni 80 con un suono come dicevamo prima post industriale, piuttosto brumoso e anche insomma una certa cattiveria sonora, fino ad arrivare appunto a questi giochi molto infantili, molto così veramente virginali, si potrebbe dire, una sorta di devoluzione che ci piace veramente tanto dentro il percorso di uno dei artisti più importanti degli anni zero. E poi c'è un altro matto, questo qui è un matto un po' particolare, oltretutto l'abbiamo visto anche in diretta, nel senso che l'abbiamo visto dal vivo ad Angelico, un'edizione credo di 2 anni fa, in cui appunto ha portato al massimo la sua performance assurda e delirante. Si è di fronte a un personaggio immenso, gigantesco, grandissimo, con questa barba lunghissima che arriva quasi appunto alla pancia, direi, e capelli lunghi, questi capelli praticamente biondi, e questo barbone tra il biondo e il rosso, un personaggio anche piuttosto ruvido all'impatto, ma assolutamente devastante in termini anche di ironia ed autoironia nel momento in cui esegue la sua performance, dove si praticamente mischiano elementi elettroacustici, registrazioni con il microfono a contatto, con vari strumenti, anche oggetti, giocattoli e strumenti elettronici e rumorismo portato all'estremo. Questo gioco continuo di utilizzare ovviamente fonti di suono che possono essere vinili, cassette, dunque tapes, radio, televisione, suoni che poi vengono rimescolati con l'utilizzazione elettronica e con oggetti appunto a livello acustico e giocattoli che lui stesso utilizza in maniera anche distorta, portando un suono ad esempio di un carillon o di un piccolo oggetto meccanico alla massima distorsione per creare poi dei suoni assurdi, oltre al fatto di inserire la sua voce, anche questa distorta e portata a un lamento e a un grido assurdo, insomma una follia totale. EDM Tef Table, musicista americano che è sicuramente uno dei personaggi più interessanti degli anni zero e che si colloca ovviamente in questo contesto in maniera particolare anche all'interno di stasera in Giocattoli Sonori. È ovvio che avremo una sfaccettatura più rumorista in questo caso con EDM Tef Table di Giocattoli Sonori, ma una visione futurista che poi abbiamo anche già iniziato ad incrociare in questa parte con Felix Kubin e che probabilmente ritroveremo anche in parte dopo EDM Tef Table. Andiamocela a sentire da un disco, uno dei tanti CDR che lui stesso ha autoprodotto, e gran parte della sua produzione degli anni zero è in CDR o in cassetta, pochi sono gli album tra virgolette ufficiali, ma lui lavora su questo piano come molti anche altri autori che negli anni zero hanno ripreso un po' questa forma di autoproduzione che era tipica soprattutto della scena industriale degli anni 80. Ci andiamo a sentire da E Custodial New Star Gaze 2005, EDM Tef Table. Are you back?

Thank you. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Es mühlt die Klappe am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Es rauscht der Bach am klappernden Mühl. Klipp, klapp, klipp, klapp, rausch, rausch. Es klappert am Bach der mühlende Rausch. Klipp, klapp, klipp, klapp, klapper, klapp. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Direi che i robot piacciono tanto a Atom TM, personaggio piuttosto curioso, personaggio che tra l'altro ha fatto veramente tantissime cose, tra cui una cosa che non è che ci piaccia poi tantissimo, anche se poi è molto amato anche da chi ascolta elettronica, ovvero Señor Coconut, dove in un album riprendeva anche tra l'altro gli storici Kraftwerk, che vengono anche un po' citati in questo Lied Good, soprattutto nella punta finale, con questa voce robotizzata che ricorda appunto gli storici tedeschi, tedesco è anche lui, d'altronde già conosciuto come Atom Mart per certa techno deviante, per ad esempio la Sigmund Dendhaus, una sorta di body music portata vicino all'industrial, oppure a una sorta di sonorità che anticipava certa minimal techno. Poi veramente progetti che affondano dentro il trip hop, dentro il gioco più così, fine anche a se stesso, in un certo qual modo Atom TM si diverte anche proprio così a creare sorte di situazionismo sonoro. Questo Lied Good è uno dei gioiellini del 2009, noto, se n'è accorto, ha voluto produrre questo, appunto, questo gioiellino che veramente si muove in maniera più che graziosa, veramente in maniera gentile dentro un'elettronica vintage che però si tinge appunto di questo gioco che ricorda Wendy Carlos ad esempio, oppure certe elettroniche di Remo Scott, oltre che appunto i citatissimi già Kraftwerk, questo robotismo moroderiano o questa ambient giocattolosa che va appunto anche a ripescare certe atmosfere che abbiamo sentito anche abbondantemente nella prima parte, ad esempio con Michael Rich, no? Quindi quella ambient così stralunata e fuori dal terrestre che muove un po' tutto il disco Lied Good, che appunto consideriamo uno dei dischi importanti e forse anche un po' misconosciuti del 2009, non poi considerato così tanto come magari avrebbe dovuto in questo caso. Poi invece Señor Coconut, grande successo, tutti con il Señor Coconut, beh, magari un po' più di attenzione verso i lavori sperimentali del signor tedesco Atom TM forse ci vorrebbe, visto che sono anche questi tinti di grande senso pop nella maniera proprio più egregia e più nobile del termine. Eh sì, e adesso da Atom TM ci spostiamo verso un'atmosfera musicale un po' differente, entriamo un po' nella Creative Orchestra, così definita come percorso appunto di orchestre musicali elettroacustiche ed elettroniche che si muovono su una creatività, un'improvvisatività molto più vicina a questi ultimi 5-6 anni, e dentro questo contesto c'è sicuramente un aspetto connesso al titolo di stasera di Giocattoli Sonori, c'è questo modo sicuramente giocoso di lavorare su strumenti acustici ed elettrici ed elettronici, e dentro questa atmosfera, questa parte dedicata alle Creative Orchestra, ci troviamo di fronte a una formazione che ha intanto in primo luogo delle copertine splendide, con delle citazioni anche artistiche connesse a quadri sicuramente molto molto avanzati, e parliamo di Viking Ub Orchestru, formazione che proviene dalle terre scandinave, con personaggi musicali che riescono a portare avanti questa orchestra con grande maestria, e dentro poi questo progetto troveremo anche un autore che collabora con questo con questa orchestra, che poi subito dopo presenteremo come autore singolo in un altro lavoro successivo. Formazione appunto che si muove su delle sezioni ritmiche piuttosto convenzionali, ma dentro invece una sperimentazione connessa soprattutto a strumenti a fiato, che riescono con grande maestria a lavorare, a giocare, a tirare fuori dei suoni piuttosto anomali, appunto, che ricordano certi giocattoli, certi suoni quasi di pupazzi animati, lavorando soltanto praticamente su strumenti tradizionali, senza utilizzare, come abbiamo visto in altri progetti stasera, dei giocattoli autocostruiti o degli strumenti autocostruiti che poi producono suoni appunto connessi all'idea anche che abbiamo noi di gioco e di giocattoli per bambini. In questo caso il suono giocattoloso esce fuori proprio dall'uso piuttosto anomalo di strumenti a fiato o strumenti a corda, soprattutto violini ed archi. Andiamoci a sentire dunque da King Ub Orchestra uno dei dischi migliori, Binaurality, uscito nel 1993. Abbiamo selezionato una traccia, tutte si chiamano in realtà Translation, con numerazioni fino alla 8, che è l'ultima appunto di questa opera, di questa formazione sicuramente interessante nell'ambito appunto delle improvvisazioni collettive. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. E siamo ritornati in diretta, abbiamo collegato la King Ubu Orchestra con Wolfgang Fuchs, che oltretutto fa anche parte di questa orchestra, nel suo omonimo lavoro Sieg Fuchs del 2005. Formazione questa King Ubu Orchestra che, ricordiamo, vede la presenza di autori molto importanti come Axel Dorner, Fernando Grillo, Paul Litton, Philip Washman, Radu Malfatti e lo stesso appunto Wolfgang Fuchs, oltre a Nelly Baron, Jean-Marie Montera e Melin Poor, autori appunto che fanno parte di questo collettivo, questa orchestra che ha inciso, ha iniziato la sua prima apparizione nell'85, nel lontano 1985, per arrivare poi all'ultimo lavoro del 2004. Noi abbiamo ascoltato invece prima Binaurality del 93, poi successivamente il grande William Fuchs con appunto il suo lavoro Six Fuchs del 2005. A questo punto siamo arrivati alla fine, abbiamo voluto colorare questa parte finale dedicata alla Creative Orchestra, tutta una parte legata all'improvvisazione radicale, più giocosa, ovviamente un'accezione piuttosto particolare ovviamente della giocosità, ma presente all'interno di questi due brani, dove appunto il modo di suonare piuttosto assurdo, stridente, anche quasi ricordare qualche pupazzo, come dicevamo prima io e Max Forionda, stritolato, un po' tirato, e appunto utilizzando soltanto strumenti elettrici e acustici, in particolare per entrambi gli autori in questione. Da questi ultimi autori abbiamo chiuso il nostro percorso di stasera di giocattoli sonori, era un modo, diciamo, un po' differente, un po' anomalo, un po' adulto di affrontare anche tutta la questione dedicata al 25 aprile. Ah no, vabbè, io pensavo all'ultima, no, quello era adulto, ma dico in generale, abbiamo voluto fare una cosa più giocattolosa stasera, invece di fare la solita cosa un po' rituale, epica sul 25 aprile, sul niente, perché adesso è veramente distante anni luce per tutta una serie di motivi, purtroppo, ma è così. Soprattutto per attitudini politiche. Direi. E per cui, insomma, poco resistenti, potremmo dire. Sì, è diventata una sorta di ricordo remoto, che non dovrebbe essere così, con queste revisioni del passato estremamente ormai residuale, che non servono a nulla, perché sì, no, purtroppo poi ci sono altre revisioni che invece prendono molto, revisioni fasciste che stanno ricostruendo tutto il 25 aprile come momento di pacificazione, di unione, non si sa di che cosa, e quando insomma c'è stato tutto un ventennio e oltre di repressione di regime. Insomma, lasciamo perdere, perché qua si aprirebbero veramente universi di discussione piuttosto lunghi. O si riaprirebbero, che ne so, magari qualche foto. Questo è purtroppo anche vero, ma d'altronde ci stiamo vivendo dei soggetti che stanno ai vertici delle istituzioni che ricordano proprio delle cose abbastanza inenarrabili. Non andiamo oltre. Vabbè. E abbiamo ascoltato Clean Perey, faccio un attimo la sua, mi piace, così, fare ti ricordi anche sì, tu, così mi ricordo quando ero bambino a scuola. Non ti scordare di te, ricordati da dove veniamo, come disse qualcuno. Lì ci perdiamo veramente in piccole, insomma, questioni nostre, ecco. Clean Perey, Frank Pal, ergo Finmitz, Michael Rich, che abbiamo ancora in sottofondo, Karen Krieg chiaramente con Felix Kubin, poi IDM, Theft Able, Atom TM, King Gubo Orchestra e Wolfgang Fuchs. Insomma, questo per, insomma, riassumere. Sì, poi trovate la scaletta per quello, poi insomma un po' lo facevo, un po' una sorta di paraculismo. Bravo. Nel senso che tutte queste scalette le trovate scritte nel nostro blog, 451 frammenti sonori tutto attaccato, .noblogs, chiaramente attaccato, .org. Trovate. Bravo. Anche le foto di Eliseo seminudo perché prima eri nudo, adesso è mutande per una questione di privacy. No? È giusto, quello è privatissimo, insomma. Molto privato, sì. Anche da me è privato. Privato da qualcosa, da molte cose. Vabbè, al di là di veramente oltre, siamo molto oltre anche come dimensione sonora. E al di là di questo, ricordiamo anche comunque che non saremo presenti la prossima settimana, essendo il 1° maggio, la festa del lavoro. Sì, noi non lavoriamo. Infatti noi non lavoriamo e dunque non veniamo. Siccome siamo in odore di disoccupazione, seppur vabbè lavoriamo, ma tanto non si capisce per chi e per che cosa, soprattutto non pagati. Vabbè, quelle sono altre questioni. Magari qualcuno è anche attraversato da ste robe che ci sta ascoltando, e poi qualcun altro è pagato. Vabbè, state tranquilli, vabbè. Non vi preoccupate, insomma, che i soldi poi pagherà sempre sono. Qualcuno. Infatti, pagherete caro. Vabbè. Pagherete tutto. Purtroppo paghiamo noi adesso. Vabbè. Sì, infatti, quello slogan proprio, guarda. Sì, è assolutamente attuale. Ribaltata la faccenda. Pagheremo caro, pagheremo tutto, infatti, anzi non pagheremo niente. Va bene, un saluto ovviamente per una buona nottata in questa città meravigliosa, ricca di fascino, di stimoli, da Max Fascino. Di stimoli. Di fasci, no? Di stimoli. Buonanotte cari.